La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio con This is the End, buon pomeriggio di questo giovedì 10 ottobre da Oscar Giannino qui su Radio 24, la versione di Oscar, poiché i minuti sono pochi, andiamo subito al tema del giorno, sperando che vogliate anche darci poi qualche vostra opinione su questo tema. Numero verde, ve lo ricordo, 800 24 00 24, per i messaggi, lo sapete, ma è comunque 349 238 6666, per scrivermi l'indirizzo è la versione di Oscar @radio24.it e tento di rispondere a tutti come sempre. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di banche, di questo secondo pilastro, oltre a quello della finanza pubblica e delle troppe tasse che ci continua a spingere giù nel prodotto e nel reddito. Anche oggi abbiamo avuto un rilascio del dato della produzione industriale ad agosto ed è, tanto per cambiare, una produzione industriale con il segno meno 0,3% sul mese precedente, meno 4,6% su base annuale. Tanto per avere un'idea, nello stesso mese la produzione industriale tedesca è riscattata più vicina al più 3% che al più 2, con un più 2,9. Tanto per capirci quanto i due pesi che abbiamo sulla testa ci spingono in basso. Una finanza pubblica sbagliata per il mix seguita in questi anni, ma dall'altra parte c'è anche, e ce lo dimentichiamo troppo spesso, il credit crunch, la restrizione di credito, che sta veleggiando, continua mese dopo mese ad andare a un ritmo che è più vicino al meno 4% che meno 3%. Vi ricordo che di solito, appunto, l'andamento nominale dell'offerta di credito deve essere di parecchio superiore all'andamento di qualche punto, insomma di qualche centinaio di punto base, a seconda di come dire, rispetto all'andamento del quantomeno dell'indice di inflazione. Noi abbiamo invece un andamento molto negativo ed è così da due anni, perché sapete la ragione: le banche non fanno altro che ripetere che loro hanno avuto enormi problemi di funding con l'esplosione degli spread, e questo è sicuramente vero. Poi nel 2012 sono arrivati qua 255 miliardi dalle aste da alta liquidità della BCE e a bassa qualità del collaterale. Di quei 255 miliardi però a impieghi per famiglie e imprese è arrivato niente, vista la restrizione di credito, perché le banche sono riempite dei titoli del debito pubblico e in cambio lo Stato ha fatto un patto con loro, e questo patto è quello per il quale gli azionisti non diluiscono la loro quota di controllo, le fondazioni non scendono, e dall'altra parte il regolatore arriva tardi e male per far fare gli aumenti di capitale, ma in cambio loro hanno i titoli del debito pubblico. E in questa situazione, malgrado la restrizione di credito, che cosa avviene? Ecco di cosa ci occupiamo oggi. Avviene che nel frattempo, mentre loro prendono il denaro allo 0,5%, ecco che possono applicarci, se andiamo in rosso sul conto corrente, non abbiamo un fido, tassi di interesse negativi per noi che se abbiamo il conto e andiamo in rosso non abbiamo il fido, fino al 24%, eppure non è usura. Ecco, siccome ieri ho visto un articolo su questo di una persona che io stimo tantissimo, che ho fatto scrivere nei giornali che ho guidato, diretto, eccetera eccetera, un professore, insegna al Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino, insegna modelli e metodi per la pianificazione finanziaria, ma io oltre che per questo lo ammiro perché da anni è la persona che con più tagliente logica, quella dei numeri, mette a riscontro, mette in paragone le condizioni che vi vengono offerte nei prodotti finanziari, nei titoli, nelle obbligazioni, nelle polizze, le polizze vita, quelle infortunistiche, ricava dai numeri delle consigli per voi tutti risparmiatori. Io vi consiglio di seguire anche il suo blog su questo, perché vi posso garantire che intervenire con questo rigore sui prodotti finanziari crea spesso problemi alla stampa, a me ne ha creati, e per questo io lo ammiro e ve lo propongo qua. Si chiama Beppe Scienza, lo ringrazio per essere qui con noi a questi microfoni. Buongiorno. Buongiorno, dopo questo devo ringraziare io. No, non deve ringraziare, non deve ringraziare, perché sa che è così. L'articolo di ieri, lo dico per chi è in ascolto, compariva sul Fatto Quotidiano, dove lei scrive adesso, e questo articolo partiva proprio da questa presa di elementare realtà, cioè Banca Intesa, tanto per fare nomi, applica questo bel interesse negativo per chi va in rosso del 22 e rotti per cento. E non è usura, lo vogliamo spiegare perché non è usura? Sì, perché purtroppo per fortuna, non so come dire, questa volta qui la colpa è sicuramente anche di Banca Intesa, che spreme i suoi clienti come limoni, ma non è solo di Banca Intesa, qui c'è una colpa del legislatore, nel senso che fino al 96 la legge sull'usura era un reato poco chiaro, sfruttare il bisogno, quindi non era chiaro quando fosse usura. Allora nel 96 il governo ha voluto fissare l'usura in maniera obiettiva con dei numeri, l'usura è oltre un certo tasso di interesse. L'idea non sbagliata, ci mancherebbe altro. Certo. rispetto all'incertezza, all'interpretazione, eccetera. Questo ha fatto una legge però con grossi difetti, purtroppo, che non è facile capire se uno non vede i numeri matematici. Perché disse, prendiamo il tasso medio che si applica in un certo settore, cioè il tasso medio per i mutui, il tasso medio per gli scoperti di conto corrente, il tasso medio per le carte revolving, no? E diciamo che usura inizialmente era quello che superava il tasso del 50%. Che vuol dire che se il tasso medio è il 10, l'usura è sopra il 15, e vabbè, se il tasso medio è il 20, l'usura è sopra il 30, va già meno bene. Poi ha fatto una modifica nel 96 perché questa cosa qui era un po' troppo forte e ha messo delle regole, il tasso medio, si prende il tasso medio, sempre si prende il tasso medio, l'usura se si va un quarto in più di 4%, poi con qualche limitazione, in pratica adesso per in molti casi con tassi alti l'usura è l'8% più del tasso medio. Ora questa cosa qui è perversa, perché prendiamo un esempio, un anno fa circa il tasso medio per gli scoperti di conto corrente, quando uno va in rosso certo, senza avere un fido, cioè così, che, insomma magari anche solo perché l'assegno a 5 giorni glielo credo, lui ne fa un altro dopo solo 3 giorni, ecco, magari va bene, era il 14,5%, l'usura partiva dal 22%, però è venuta fuori una furbizia di Intesa San Paolo che manda una lettera il 13 luglio del 2012 e dice che per evitare, visto una significativa alterazione dell'equilibrio economico generale nei rapporti in corso con la clientela, bella frase, significativa alterazione dell'equilibrio economico generale nei rapporti in corso con la clientela. In altre parole, cresce, continuano a crescere le sofferenze, l'altra lamentela bancaria. Ma insomma, non si capisce, abbastanza, si potrebbe anche dire. Vabbè. Decide che si fa così, si prende il tasso soglia, cioè il tasso a cui è usura, si toglie il 2% perché è sicuro di stare sotto, e applica questo interesse. Cosa capita però facendo così? Capita che se altri lo imitano e qualcun altro è imitato, se prima il tasso di usura era il 14, dopo un anno il tasso medio, cioè il tasso medio era il 14, dopo un anno è diventato il 16. E Intesa San Paolo applica a questo punto il 20%. Se tutti applicano il 20%, il tasso medio diventi il 20%, e allora l'usura ci sarà a partire dal 28 in su. Se tutti stanno un po' sotto e aprono il 26, il tasso medio diventa il 26, e il tasso di usura va al 34%. Ecco, in altre parole, io spero che sia stato, perché lo è stato, almeno per me, chiarissimo Beppe Scienza, il professore spiega che tramite una prassi, per così dire, che è collusiva, perché c'è la convenienza degli istituti bancari a fare così, per via della norma messa nella legge del 96, ecco che il tasso medio al quale con il differenziale poi si ricava il tasso di usura cresce perché le banche naturalmente lo portano su. Ed ecco perché è possibile che voi vi becchiate tra poco fino al 28% di tassi di interesse negativi sugli scoperti di conto, se non coperti dal fido, quando, ripetiamo, il tasso di interesse è di 50 punti base per le banche, cioè dello 0,5%, quanto l'Euribor è 200 punti base, poco più, eccetera, eccetera, e però voi ne pagate un bel pacco in più di tassi di interesse. Adesso ci dobbiamo fermare per il minuto dell'informazione stradale, poi torniamo e spero anche che ci sia qualche domanda da parte di qualcuno di voi al professor Scienza. La versione di Oscar. Allora, stiamo qui tornati in studio in diretta, poi naturalmente mi raccomando anche i podcast, stiamo iniziando ad andare bene nella graduatoria iTunes, stiamo parlando di banche, abbiamo dato una spiegazione lineare del come sia possibile beccare tassi di interesse negativi sui scoperti di conto sul 22-23 stando sotto il 24% da parte di Banca Intesa, facendo il nome, ma spiegandovi anche come con un meccanismo collusivo nel tempo le banche fanno crescere il tasso medio di riferimento rispetto al quale poi, rispetto a questo errore fatto con questo differenziale fisso con la legge nel 96 per calcolare il tasso di usura, ecco che loro stanno sotto tasso di usura, ma il tasso cresce sempre solo per voi. Molti di voi hanno chiesto anche informazioni lamentandosi molto delle commissioni, degli oneri impropri che continuano a crescere, la commissione di disponibilità fondi, la commissione per istruttoria veloce. È una bella gara quella che gli istituti bancari spesso inscenano per tentare di aggirare gli interventi che ci sono stato per abbattere il costo medio di tenuta e le commissioni, però è una gara che ovviamente loro fanno per riacquisire margini alle spalle dei clienti. Naturalmente noi abbiamo parlato dello scoperto di conto, ma tutta questa modalità si estende poi ai tassi su tutte le diverse cose, come il professor Scienza citava ieri, al quinto dello stipendio, alle carte di credito revolving, eccetera, eccetera, e in alcuni casi naturalmente sale ulteriormente, è così Scienza? Sì, perché per esempio per le carte di credito revolving il tasso di usura attualmente è 25,09, quindi se uno fino a 5.000 euro, se uno applica 25 non è usura. Questo mi ricorda che un tempo si diceva che le banche, insomma gli stati, le persone normali prestavano i soldi a un tasso di interesse annuale, no? 2, 3, 4, 5, 7%, gli usurai lo prestavano al tasso mensile, 1, 2, 3%. Ora qui, col 25%, siamo a un tasso mensile del 2%, quindi proprio storicamente tassi da usurai, tassi 2% da usurai al mese, 2% sì. È un tasso più alto su base annua di quello che la gente ottiene dallo Stato italiano sul breve periodo. Esattamente, quindi, questo per avere un raffronto. Si paga al mese meno di quello che uno tiene con i BOT in un anno. Allora, professor Scienza, il consiglio, o meglio, la richiesta, ma facciamo i gentili, il consiglio da dare al legislatore di come reintervenire su questa norma che consente questa asimmetria a svantaggio dei clienti a favore delle banche per calcolare il tasso usurario, quale potrebbe essere? Ma qui c'è un errore a monte, che è un errore insomma della soluzione semplice, che è la soluzione dell'automatismo. Hanno messo delle leggi in cui c'è un automatismo, si prende un tasso medio, si applica una formula, tutto va in automatico, lo fa un computer. Ora, in finanza gli automatismi, ma vale anche per il investitore che crede nei meccanismi automatici, mediare, comprare, aggiungere in maniera automatica, sono delle cose molto pericolose. Quindi io direi che qui non si deve mettere un automatismo, o almeno se si mette un automatismo ci vuole un riferimento ai tassi di mercato comunque base, che non sono i tassi sulla cessione, quindi lo stipendio, i tassi bari sono appunto l'Euribor, i tassi di sconto, il tasso banca centrale. Sì. Il suo riferimento. Quindi il tasso è sceso dall'Euribor dal 4,5 allo 0,2%, non c'entra niente. Qui loro hanno guardato semplicemente qual è il tasso sui prezzi personali, qual è il tasso sulle carte di credito. Esattamente. Tutto questo non conta. Allora, senza riancorare all'andamento fondamentale dei tassi, cioè quelli ufficiali, eccetera, eccetera, io credo che abbia ragione chi ci manda i messaggi dicendo: come fate a immaginare che un errore del legislatore non sia stata una scelta collusiva? Sì, anch'io, Filippo da Lucca, che mandi questo messaggio, la penso come te. È stato un atteggiamento collusivo del legislatore, perché c'è un evidente patto, a mio giudizio, tra i regolatori, la politica e le grandi banche italiane. Questa è la mia personalissima opinione e non me la sento certo di attribuirla a Beppe Scienza. Sentiamo Ludovico da Milano. Ludovico da Milano, prego. Sì, salve. Senta, io prima che adesso il governo Berlusconi, ero una conferenza dove c'era Mario Monti. Quando era ancora professore, non premier. Esatto. Quando c'era anche a questa conferenza Ferruccio De Bortoli. E loro, questa conferenza era per, dicevano che bisogna salvare le banche, bisogna dare i soldi alle banche. Io a un certo punto mi sono alzato e ho detto: io non sono d'accordo con voi. E lui mi ha detto: perché? Ha detto: perché bisogna salvare le aziende, bisogna evitare il cosiddetto credit crunch, bisogna dare i soldi alle aziende che anziché licenziare perché non hanno soldi, che diventa poi un costo per lo Stato, per la cassa integrazione, in questo modo veramente dando i soldi alle aziende lavorano producono, e i risparmi delle aziende e dei lavoratori vanno alle banche, e le banche poi fanno il loro lavoro. Ma se voi date i soldi alle banche, lei secondo me ha posto un grande problema, e l'ha posto proprio quando c'era l'esplosione ancora alla coda, ma in Europa stava esplodendo allora, poi nel suo acme, l'eurocrisi, il rischio sovrano. Ma è la domanda centrale di tutti questi anni della grande crisi: il rischio sistemico nel mondo del credito degli intermediari finanziari, che ha concentrato tante decine di punti di PIL dei paesi avanzati in aiuti alle banche, quando poi in paesi come il nostro si è tradotto in una strage dell'economia reale. Ma era così giusto? Che cosa risponde Beppe Scienza a questo? Sono problemi molto grossi, in questi io ho difficoltà a delle soluzioni. Vorrei fare due commenti però, piuttosto. Uno, la critica che ha fatto lei, che le banche si tengono buoni i governi comprando titoli di Stato anziché prestando soldi all'economia, viene fatta anche in Germania. Sì, sì. Per cui un discorso purtroppo generale, non so. Generale, sì, è verissimo. E poi vorrei dire, visto che si fanno i nomi, io faccio il nome di Intesa San Paolo, che ha scelto questo criterio, però bisogna anche dire che non tutte le banche hanno fatto così. Esatto, correttissimo. Perché sennò adesso la media sarebbe arrivata immediatamente dell'usura al 20% applicato un anno fa, e la media del mercato è arrivata al 20% applicato un anno fa, e quindi avremmo l'usura al 28%, invece la media è salita solo al 2%, esatto. Quindi molte banche non hanno fatto così. Correttissimo, per fortuna. Correttissimo. Correttissimo, e ne diamo giustamente atto. Flavio da Milano, brevissimo. Sì, buonasera Giannino, buonasera professore. Pochi secondi? Niente, io volevo portare soltanto una domanda rispetto a un altro atteggiamento delle sì. banche, secondo me poco chiaro. Quale? Per chi è titolare di un conto corrente vincolato a un mutuo, perché sì. siamo tutti d'accordo che per accendere un mutuo richiedono obbligatoriamente certo. un conto corrente. Ultimamente a me è capitato 3 volte negli ultimi 4 anni che la banca decidesse di andare a fare in maniera unilaterale una modifica peggiorativa delle condizioni di tasso e delle condizioni generali anche di... Allora Flavio, qui sono obbligato a dire che bisognerebbe vedere come te l'hanno giustificata, perché il nostro tempo è purtroppo scaduto, e riprenderemo, perché torneremo sistematicamente su questo tema delle banche e delle condizioni di credito. Intanto un ringraziamento a Beppe Scienza, appuntamento a domani sempre su Radio 24.